Capitolo 16. Lettere. Nel crepuscolo grigio, prima del giorno, le sorelle accesero la lampada e lessero, come al solito, un capitolo del libricino, ma con più fervore quella mattina. Adesso che era su loro l'ombra di un dolore vero, lo vedevano, quanta luce vi era stata nella loro vita fino a quel giorno. E il libricino della mamma era ad ognuna d'aiuto e di conforto. Mentre si vestivano, si misero d'accordo che avrebbero salutato la mamma con parole di gioia e di speranza per non lasciarle in quel viaggio che già era così triste e pieno d'ansia, un'immagine delle figliuole piangenti e avvilite. Quando scesero di sotto le attendeva un'impressione strana. Il contrasto del cupo silenzio di fuori con la luce e il movimento di dentro. E poi la colazione ad ora insolita e anche l'aspetto di Anna che si affaccendava per la cucina in cuffia da notte non pareva una cosa naturale. Il grosso baule era già pronto nell'atrio, il soprabito e il cappello della mamma posati sul sofà. La mamma stessa si sforzava di mangiare qualcosa, ma era così pallida e abbattuta dall'insonnia e dall'ansia che le ragazze dovettero fare un grande sforzo per mantenere il loro proposito. Meg, per quanto lottasse, aveva gli occhi pieni di lacrime. Jo più di una volta dove nascondere il volto. Anche in quello delle due piccine c'era un'espressione grave e turbata. Esse facevano la prima conoscenza col dolore. Nessuna parlava molto, ma quando il momento fu prossimo e si aspettava la carrozza, la signora March disse alle figliuole, mentre si affaccendavano a piegarle lo scialle e ad aggiustarle i nastri del cappello, a infilarle il soprabito e chiuderle la valigetta a mano. Bambine mie, vi affido ad Anna e alla protezione del signor Lawrence. Anna è la fedeltà fatta persona, e il nostro buon vicino veglierà su voi come se foste figliuole sue. Per voi non temo nulla. Per voi la sola preoccupazione che ho è di vedervi prendere tutto ciò come va preso. Quando non ci sarò io, voi non state ad affliggervi e a smaniare. Non vi mettete nemmeno in testa che l'ozio vi possa riuscire di conforto e vi aiuti a dimenticare. Attendete alle vostre occupazioni come al solito, perché il lavoro è sempre una benedizione, una consolazione. Sperate e non state oziose, e qualunque cosa accada, ricordatevi che non rimarrete mai senza un padre. Sì, mamma. Cara Meg, tu sii prudente, veglia sulle tue sorelle, senti il parere di Anna e nei casi dubbi e difficili ricorri per consiglio al signor Lawrence. Tu, Joe, sii paziente e non ti abbattere mai e non prendere decisioni avventate. Scrivimi spesso e sii la mia brava figliuola pronta sempre ad aiutare le altre e a far loro coraggio. Beth, tu troverai conforto nella musica e attenderai pure fedelmente ai tuoi piccoli doveri domestici. E tu poi, Amy, cerca di essere di aiuto alle altre finché puoi. Sii ubbidiente e stattene in casa, contenta e quieta. Sì, mamma. Sì, mamma. Le scosse il rumore della carrozza che arrivava. Tesero l'orecchio. Il momento crudele era venuto. Ma resistettero bene. Nessuna di loro pianse, nessuna fuggì via per farla finita più presto, nessuna mise un lamento. Ma con che cuore ciascuna disse alla mamma il proprio messaggio per il babbo e con che tremito nella voce. E se il messaggio arrivasse troppo tardi? Chete, chete la baciarono, l'abbracciarono stretta e nel saluto con la mano quando si allontanò cercarono di metterci tutta l'allegria che potevano. Lori e il nonno erano venuti anche loro a salutarla. Il signor Brooke aveva un'aria di energia, di intelligenza e di bontà che subito lo fece battezzare dalle ragazze come un personaggio del pellegrinaggio, Messer Grancuore. Arrivederci, care, Dio vi benedica tutte e vi guardi, mormorava la signora March, baciando l'uno dopo l'altro i giovani volti prima di salire in carrozza. Appena questa si mosse, si fece vedere il sole. La mamma, rivoltandosi a guardare, vide sul cancello la piccola compagnia illuminata dai suoi raggi e le parve di buon augurio. Anche loro lo notarono e sorridendo sventolarono le mani. L'ultima cosa che ella vide prima di scomparire furono i quattro visini delle sue bimbe e dietro ad esse, come una guardia del corpo, il vecchio Lawrence, la fedele Anna e il devoto Lori. «Come sono buoni tutti con noi», ella disse al giovane compagno di viaggio, e anche sul suo volto lesse quella rispettosa simpatia che era essa pure un riflesso e una prova della bontà di tutti quegli amici. E come potrebbero fare altrimenti? Disse pronto il signor Brooke e rise di un riso contagioso che fece sorridere lei pure. E così ebbe inizio un lungo viaggio col triplice buon augurio del sole, dei volti sorridenti e delle parole incoraggianti. Mi pare come se ci fosse stato il terremoto, disse Joe quando i due vicini se ne andarono a colazione, lasciando lei e le sorelle a riposare un poco e a ricomporsi. È come se tutta la casa fosse andata via, aggiunse Meg con mestizia. Beth voleva dire qualcosa anche lei e già apriva la bocca, ma non poté fare altro che additare sulla tavola della mamma una bella fila di calze rammendate perfettamente. Anche in quelle ultime ore di fretta e di affanno aveva pensato a loro, lavorato per loro. Una piccolezza, ma andava dritta ai loro cuori e con tutti i loro propositi di avere coraggio, non ressero più e piansero. Anna, con molto più buon senso, lasciò che si sfogassero e quando le lacrime accennarono a scorrere un po' meno, ella si armò prontamente di una caffettiera e venne alla riscossa. Adesso, mie care signorine, ricordatevi cosa ha detto mamma e non state ad affliggervi. Venite tutte a prendere il caffè, ve l'ho preparato, e poi da brave al lavoro e fate onore alla famiglia. Il caffè di Anna era sempre una cosa prelibata, ed ella col farlo proprio quella mattina diede prova di grande opportunità. Come resistere alla sua mimica eloquente e all'invito profumato della caffettiera? Si strinsero intorno alla tavola. Misero da parte i fazzoletti, prendendo i tovaglioli, e in 10 minuti si sentirono rincuorate. Sperare e mantenersi attive, ecco il motto che fa per noi, e vediamo chi se lo ricorda meglio. Io vado dalla zia March, come al solito, ma che prediche mi farà, disse Joe mentre sorseggiava la tonificante bevanda. E io vado dai miei King. Preferirei molto però rimanere qui e badare alla casa, disse Meg, pensando fra l'altro che doveva avere gli occhi rossi. Non occorre, ci siamo Beth e io, terremo la casa perfettamente in ordine, assicurò Amy con importanza. Anna ci dirà cosa dobbiamo fare. Quando tornate vedrete come sarà tutto a posto, tutto bello, aggiunse Beth e tirò fuori subito il cencio da spolverare e il bacino dove si lavano le stoviglie. Secondo me avere delle preoccupazioni è una cosa molto interessante, osservò Amy pensosa, ma poco chiara, e si mise in bocca un pezzo di zucchero. Le altre non poterono tenere le risa, e anche questo fece loro bene, per quanto Meg scotesse il capo davanti a quella signorina che trovava il suo conforto nella zuccheriera. Alla vista delle due solite schiacciate calde preparate da Anna, Joe si rifece seria. Quando le due sorelle maggiori uscirono per recarsi al lavoro quotidiano, ambedue si rivoltarono sconsolatamente a guardare indietro, alla finestra, dove appariva di solito il volto della mamma. Non c'era la mamma, ma Beth si era ricordata la piccola cerimonia di tutte le mattine e sulla finestra a salutarle c'era lei, con un grazioso inchino e la sua faccia sorridente di mandarino, ma a color di rosa. La vedi, sempre lei la mia Beth, disse Joe, rispondendo all'inchino con una scappellata e un sorriso riconoscente. Ciao Meg, ti auguro che i King non siano troppo scoccianti oggi. Per il babbo non stare troppo in pensiero, cara, le disse lasciandola. E io ti auguro che la zia non gracchi tanto. Ti stanno già bene, sai, i capelli, hai l'aria di un bel ragazzo, disse Meg, cercando di non sorridere di quella testa ricciuta, così piccola sulle spalle piuttosto ampie di Joe. Non ho altra consolazione, disse Joe, salutando la sorella col toccarsi le falde del cappello come faceva Lori, e via, col suo aspetto di pecora tosata in un giorno di vento. Le prime notizie che ebbero dal padre furono assai confortanti. La malattia era grave, ma ben presto si fece sentire l'effetto dell'abile e tenera infermiera che adesso assisteva il malato. Ogni giorno il signor Brooke mandava il bollettino e come capo della famiglia Meg ci teneva a dargli lettura con una certa solennità. Nella prima settimana le notizie furono sempre più rassicuranti. Sul principio tutte volevano scrivere e alla posta mandavano una busta molto gonfia. L'andavano ad impostare a turno, dandosi molta importanza per quella corrispondenza con la capitale federale. Vale la pena di riprodurre il contenuto caratteristico di uno di quei plichi. Fate conto che lo abbiamo violato. Mamma carissima, non so dirti come ci ha rallegrato la tua ultima lettera con le buone notizie che contiene. Non abbiamo potuto trattenere il riso e le lacrime. Quanto è gentile, signor Brooke, e che fortuna che gli affari del signor Lawrence lo trattengano così tanto a lungo, visto che riesce così utile a te e al babbo. Le bambine sono buone, Joe mi aiuta a cucire e le cose più grevi le vuole fare sempre lei. Quasi quasi avrei paura che strafacesse, ma so che le crisi di moralità non le durano molto. Beth attende alle sue faccende regolare come un orologio e non si dimentica mai di ciò che le hai detto. Sta sempre molto in pensiero per il babbo, seria seria, e non è serena che quando è seduta al piano. Emmy è brava e mi dà retta, e io bado molto a lei. Si pettina da sé, io le ho insegnato a fare gli orli alle asole e a rammendarsi le calze. Ci si mette sempre di buona voglia, sai. Sono sicura che quando tornerai sarai molto contenta dei suoi progressi. Il signor Lawrence ci sta a guardare come una vecchia chioccia, dice Joe. Lori è sempre molto gentile e premuroso. Lui con Joe ci tengono un po' sul morale, perché alle volte ci viene l'umore nero a trovarci senza babbo né mamma. Anna è una vera santa, non brontola mai e mi chiama sempre signora Margherita. E questo sta molto bene, come sai. Insomma, mi tratta con tutto il rispetto. Noi stiamo tutte benissimo, sempre occupate, e giorno e notte sospiriamo il vostro ritorno. Tante cose affettuose al babbo e credimi sempre la tua Meg. Un grande contrasto col biglietto di Meg scritto in bella calligrafia e su carta profumata faceva il successivo scarabocchiato su di un gran foglio di carta sottile di fabbrica estera con macchie, cancellature e svolazzi fantastici. Mammina d'oro! Tre urrà per il vecchio e caro genitore! Brooke ha avuto una pensata mascola a telegrafare subito. Appena c'è stato il miglioramento. Io, quando è giunta la notizia, sono scappata immediatamente su in soffitta e volevo ringraziare il Signore che è così buono con noi, ma non sono riuscita che a piangere e a dire sono tanto, tanto contenta. Varrà questo come una preghiera in regola? Il mio cuore ne era gonfio di preghiere. Qui stiamo benone, anch'io adesso, perché tutti sono tanto buoni e par di vivere in un nido di tortorelle. Vedessi com'è buffa Meg a capotavola che vuol fare da mamma. Si fa ogni giorno più bella e in certi momenti io ne sono innamorata. Le due piccole sono senz'altro più che angeli, arcangeli, e io, ossia Joe, sono Joe e nient'altro che Joe. Ah, ti devo raccontare che per poco non abbiamo litigato con Lori. Io gli dissi chiaro e tondo quello che pensavo a proposito di una sciocchezza da nulla e lui si è offeso. Io avevo ragione, ma non mi ero espressa come dovevo, e lui è andato via dicendo che non tornava finché non gli chiedevo scusa. Io gli ho dichiarato che non gliel'avrei mai chiesta e sono montata in furia. La cosa è durata per tutta la giornata. Io mi sentivo molto cattiva e avrei voluto che ci fossi stata tu. Tanto lui che io siamo ambedue orgogliosi e domandar perdono è ben duro. Ma io credevo che lui lo avrebbe fatto perché la ragione l'avevo io. Lui non veniva. E proprio quella sera io mi sono ricordata quel che dicesti tu quando Amy cadde nel fiume. Ho letto un po' nel libricino, mi sono sentita più buona e ho deciso di non lasciare che il sole tramontasse sulla mia ira. Sono corsa da Lori a dirgli che ero dispiacente. E l'ho incontrato sul cancello che veniva anche lui a fare la stessa cosa. Beh, due, ci siamo messi a ridere, ci siamo chiesti perdono e adesso ci sentiamo tutti buoni e contenti. Ieri ho fatto una poesia mentre aiutavo Anna per il bucato e siccome al babbo piacciono le mie sciocchezzole gliela mando, lo divertirà un po'. Abbraccialo con tutto l'amore che c'è nel mondo e dà tanti baci a te stessa da parte della tua Jo la pasticciona. Poesia. Il bucato. Alta spumeggia bianca come argento la saponata d'iride e di latte. Rossa la mano frega e sciacqua e sbatte i lini e alfin li torce e appende al vento. Ah, potere anche all'anime e del cuore fare il bucato, sì, che non vi duri macchia di colpa e ombra di dolore. Ah, rifarsi ogni dì, sereni e puri. Eppure un mago iddio padre ci ha dato che il dolor culla e il peccato scaccia e ci fa quel mirabile bucato, un gran mago, il lavoro delle braccia. Cara mamma, non rimane per me che un po' di spazio per dirti tutto il mio affetto. Ti mando, per farle anche vedere al babbo, queste viole del pensiero seccate del ceppo che conservo in casa. Tutte le mattine io leggo il libretto, cerco di essere buona tutta la giornata e la sera, quando vado a letto, prendo sonno cantando sottovoce quell'inno che piace al babbo. terra dei fedeli. Adesso non lo posso cantare perché mi fa venire da piangere. Qui siamo tutte buone e siamo contente per quanto è possibile stare contente senza di te. Amy vuole che le lasci il resto della pagina e perciò faccio punto. Non ho dimenticato di coprire gli scatoloni e di dare tutti i giorni la corda all'orologio e l'aria alle stanze. Tanti baci al caro babbo sulla guancia che lui dice che è mia. Torna presto, dalla tua affezionata piccola Beth. Ma chère maman, noi stiamo tutte bene. Io faccio i miei compiti regolarmente e non contravvengo mai le sorelle. Meg sostiene che si deve dire contraddico, perciò li metto tutti e due e tu sceglierai il più migliore. Meg è tanto buona con me. Ogni sera mi dà la marmellata col tè e Joe dice che mi fa bene perché mi mantiene dolce. Lori non è rispettosa con me come dovrebbe ora che ho quasi 14 anni. Mi chiama Polastrella e per farmi arrabbiare si mette a parlare francese molto in fretta quando io dico merci e bonjour come Hattie King. Il vestito blu aveva le maniche tutte consumate. Meg gliele ha messe nuove, ma sono venute male perché sono più scure del resto. Ma io non ho fatto la cattiva e sopporto con pazienza, ma vorrei che Anna Mina mi dasse di più il grembiule e la farinata tutti i giorni. Non è vero? Guarda il punto interrogativo com'è venuto bello. Meg dice che l'ortografia e la punteggiatura mie sono una vergogna, ma che vuoi? Ho tante cose da fare. E non ho tempo per certe inettitudini. Adieu, un mucchio di baci grosso così, oh cher papà, tua affezionatissima figlia Amy Curtis March. Mia cara signora, ci scrivo queste due righe per farci sapere che qui tutto va bene. Le ragazze sono brave e filano. Miss Meg sta diventando una brava padrona di casa, ci piace molto di farlo e impara tutto a volo d'uccello. Joe vuol fare tutto in un momento, ma non fa bene i conti e non si sa mai cosa combina. Lunedì ha fatto una tinozza di bucato, ma ci ha dato l'amido senza torcere e il blu di Prussia al vestito di calico rosa che ci ha fatto morire dal ridere. Beth è la bambina più buona del mondo, ma aiuta tanto perché è attenta e fidata. Cerca di imparare tutto e sa fare le spese come una donna grande e fa anche i conti con l'aiuto mio che è una belessa. Finora ci siamo state dentro con le spese perché il caffè ce lo do una volta solo la settimana, come voi m'avete detto, e ci do tutta roba semplice e sana. Amy è molto brava per brontolare, mettersi le vesti più belle e mangiare lo zucchero. Il signor Lori fa sempre il matto e mette la casa sottosopra, ma le fa stare allegre e io lo lascio fare. Il vecchio manda sempre un mucchio di roba, anche troppo, ed è un po' seccante, ma lo fa per bene, non tocca a me di criticare. Il pane si gonfia e poso la penna per questa volta, esequi al signor March e spero che l'openemonite non cela più. Vostra devotissima Anna Mullet. Infermiere capo del reparto 2. Tempo bello sul Rappahannock. Truppe in condizioni perfette. Commissariato ineccepibile. La territoriale sotto il colonnello Teddy disimpegna attentamente il suo servizio. Il comandante in capo, generale Lawrence, passa ogni giorno in rassegna alle truppe. L'aiutante Mullet mantiene l'ordine all'accampamento e il maggiore Lyon fa la ronda tutte le notti. Salva di 24 colpi per le buone notizie da Washington e sfilamento in parata in alta uniforme. I migliori auguri dal comandante in capo, ai quali aggiunge di cuore i suoi il colonnello Teddy. Gentilissima signora March, le ragazze stanno tutte bene. Beth e mio nipote mi riferiscono ogni giorno. Anna è il modello delle domestiche e fa la guardia come un cerbero alla più grande e più bella delle vostre figliuole. Sono lieto che il tempo si mantenga. Vi prego di servirvi del signor Brooke, senza complimenti. Fate pure tratta su di me qualora le spese eccedano i preventivi. A vostro marito non deve mancare nulla. Ringrazio con voi il cielo per il costante miglioramento e vi prego di credermi vostro devotissimo amico James Lawrence. Capitolo 17. La prova lunga. Per una settimana ci fu nella vecchia casa tanta virtù da rifornirne il vicinato. Era davvero sorprendente, pareva che le ragazze fossero in uno stato d'animo celestiale. L'abnegazione era la gran moda. Ma quando non furono più tanto preoccupate per il babbo, a poco il lodevole sforzo andò scemando e cominciarono a ricadere nelle vecchie abitudini. Il motto che avevano adottato non era dimenticato, ma operare e stare attive cominciava a parere una cosa tanto semplice, e l'effetto era che dopo il primo grande sforzo si sentivano come se la buona volontà spiegata meritasse un po' di vacanza, e gliene concedevano un bel po'. Joe prese un grosso raffreddore, trascurando di coprirsi bene la testa, e dovette stare in casa finché non si rimise. La zia non la voleva, una lettrice che parlava col naso. Joe trovò la cosa di suo gusto e dopo molto girovagare irrequieto e trasferirsi dalla soffitta alla cantina, finì con lo stabilirsi sul sofà per curare il raffreddore con i preparati arsenicali e la lettura. Amy scoperse che le faccende domestiche e l'arte non andavano bene insieme e tornò ai suoi fantocci. Meg andava tutti i giorni al suo lavoro e in casa cuciva, ossia era convinta di cucire. Ma molto del suo tempo lo occupava a scrivere lunghe lettere alla madre e a leggere e rileggere quelle che arrivavano da Washington. Beth teneva duro più delle altre, con solo qualche piccola ricaduta nella pigrizia e nelle lacrime. Ad ogni modo le sue faccenduole le sbrigava ogni giorno e anche parecchie di quelle delle altre, le quali facilmente se ne scordavano, sicché la casa era come un orologio il cui pendolo avesse fatto sciopero. Quando la faceva soffrire di più la lontananza della mamma o il pensiero del babbo in pericolo, Beth si ritirava in un certo sgabuzzino, nascondeva il volto nelle pieghe di una vecchia veste che le era cara e zitta zitta faceva il suo pianterello tutta sola e la sua piccola preghiera. Chissà, dopo quegli accessi di idee nere, cos'era che la tornava a risollevare? Ma tutte la trovavano sempre così buona e servizievole che presero l'abitudine di ricorrere a lei ogni volta per conforto e per consiglio nei loro piccoli guai. Nessuna di loro lo vedeva che la situazione in cui si trovavano era una prova per il carattere. Passati i primi entusiasmi, rimase loro la convinzione di essersi portate bene e di meritare lode. E la meritavano, ma lo sbaglio era che non perseveravano, e questo lo appresero a costo di molte ansie e pentimenti. Meg, dovresti andare dagli Hummel. Sai che la mamma ci era comandato di non dimenticarli, diceva Beth 10 giorni dopo la partenza della signora March. Oggi no, sono troppo stanca, rispondeva Meg, dondolandosi comodamente nella sedia sulla quale stava a cucire. Joe, ci vai tu? Chiedeva allora Beth. Con questo tempaccio e col mio raffreddore? Mi pareva che ormai stessi meglio. Sto bene abbastanza per uscire con loro, ma non per andare dagli Hummel, disse Joe ridendo, ma arrossendo un po' della sua incoerenza. Perché non ci vai tu? Chiese Meg. Ci vado ogni giorno io, ma adesso il piccino è ammalato e io non so cosa bisogna fargli. La signora Hummel va fuori a lavorare e Lottchen gli bada lei, ma ogni giorno peggiora. Credo che farebbe bene ad andarci Anna. Beth parlava con molta serietà. Meg promise di andarci l'indomani. Fatti dare da Anna qualcosa da portargli, Beth, e vacci tu, l'aria ti farà bene, disse Joe e aggiunse scusandosi. Io ho da finire il racconto. Mi duole il capo e sono stanca, disse Beth, e perciò avevo pensato che ci poteva andare una di voi. Presto ritornai e ci andrà lei, suggerì Meg. Bene, io mi riposo un po' aspettandola. E Beth si sdraiò sul sofà. Le altre tornarono alle loro occupazioni e gli Hummel furono dimenticati. Passò un'ora e Amy non veniva. Meg andò in camera da letto a provare un vestito nuovo. Joe fu ripresa dal suo racconto e Anna russava in cucina davanti al fuoco. Alfine, Beth, zitta zitta, si mise la mantellina col cappuccio, riempì il cestino di varie cose più o meno utili per quelle povere piccine. E uscì nell'aria gelida con un peso sul cuore e una gran pena negli occhi buoni. Un'ora dopo, entrando nello sgabuzzino della mamma per non so che cosa, Giovi trovò la povera Beth davanti alla cassetta dei medicinali, tutta seria, con gli occhi rossi e con una boccetta di sale in mano. Porca miseria, cosa ci è venuto? esclamò Joe mentre Beth con la mano le faceva cenno di stare larga e le domandava preoccupata. Tu l'hai avuta la scarlattina, è vero? Qualche anno fa io e Meg, perché? Allora te lo dico, sai, Joe, il bambino è morto. Quale bambino? Quello della signora Hummel. Mi è morto sulle ginocchia prima che la mamma tornasse, esclamò Beth con un lungo sospiro. Povera piccola mia, che paura avrai avuto! Dovevo andarci io, disse Joe, e si prese la sorella sulle ginocchia, abbandonandosi nel seggiolone della mamma col cuore oppresso e pieno di rimorsi. Mico ho avuto paura, sai, Joe, ma mi ha fatto tanto male. M'ero accorta subito che il pupetto stava peggio. Ma Lottchen mi disse che la mamma era andata per il medico e io l'ho presa in braccio per far riposare un po' lei. Pareva che dormisse, ma a un tratto fece un piccolo gemito. Tremò tutto e non si muoveva più. Cercai di scaldargli i piedi. Lottchen gli diede un po' di latte, ma era inutile e io compresi che era morto. Non piangere, cara. Cosa hai fatto allora? Sono rimasta lì a tenermelo in braccio finché tornò la signora Hummel col dottore. Il dottore disse che era morto e guardò Enrico e Minna che hanno il mal di gola. È scarlattina, signora. Bisognava chiamarmi prima, disse con severità. La signora Hummel gli rispose che lei era povera e aveva cercato di curare il bambino da sé, ma adesso era troppo tardi. Soltanto lo pregava di assistere gli altri e quanto all'onorario lo facesse per amor di Dio. Allora lui sorrise un po' e si fece più gentile, ma era una gran pietà. Io stavo a piangere con loro, ma lui d'un tratto si rivolse a me e mi disse di andare subito a casa a prendere la bella donna, se non volevo che venisse il male anche a me. Oh no, non ti verrà! Esclamò Joe stringendola al seno, ma negli occhi aveva una gran paura. Oh Beth, se ti ammalassi tu io non me lo perdonerei mai. Cosa dobbiamo fare? Non avere timore, credo che molto grave non mi verrà a me. Ho guardato nel libro della mamma e ho visto che comincia col dolore di capo e col mal di gola e con una sensazione strana come quella che provo io adesso. La bella donna l'ho presa già e mi sento meglio. E Beth si passava le mani gelide sopra la fronte che le ardeva cercando di farle indifferente. Ah, se ci fosse la mamma! Esclamò Joe prendendo il libro dei pronti soccorsi. Washington pareva lontano, ai confini del mondo. Scorse con gli occhi una pagina e poi guardò la sorellina. Le sentì la fronte, le osservò in gola e infine disse con molta serietà: A contatto col bimbo tu ci sei stata ogni giorno, per una settimana e più, e certamente il male verrà a te pure. Chiamiamo Anna, lei sa tutto delle malattie. Non fate venire Amy, lei non l'ha avuta e non voglio dargliela. A te e a Meg non vi può tornare, è vero? Domandò Beth, ansiosa. Credo di no, e per me non mi importa, mi starà bene, egoista che sono, a lasciare andare te per starmene a scrivere le mie sciocchezze. E Joe si recò brontolando a consultare Anna. In un minuto la brava donna si rese conto della cosa e con la sua parola autorevole assicurò Joe che non c'era da preoccuparsi. La scarlattina veniva a tutti e curandosi bene non ne moriva nessuno. Joe credette a tutto ciò che diceva Anna e molto sollevata andò con lei a rassicurare Meg. Sentite cosa faremo adesso, disse Anna, quando ebbe esaminato e interrogato Beth. Chiamiamo il dottor Banks che ti dia un'occhiata, cara, e così cominciamo subito a fare quello che occorre. Poi mandiamo Amy dalla zia March per un po' di giorni, lontana dal pericolo. Una di voi due grandi starà in casa a fare compagnia a Beth. Ci sto io, naturalmente, sono la più grande, disse Meg, preoccupata e piena di rimorso. No. Tocca a me, disse Joe con energia. È colpa mia se si è ammalata. Avevo promesso alla mamma che a fare le commissioni ci andavo io e non l'ho fatto. Chi vuoi tu, Beth? Domandò Anna alla piccola malata. Basta una, sai? Allora a Joe vorrei, disse Beth, indicandola col capo. Non c'era altro da replicare. Io vado a spedire Amy, disse Meg. Si sentiva un po' offesa, ma provava anche un certo sollievo perché, a differenza di Joe, non le piaceva punto di fare l'infermiera. All'ordine di andare dalla zia, Amy si rifiutò subito e dichiarò energicamente che piuttosto voleva avere la scarlattina anche lei. Meg insisté con le ragioni e con le preghiere. Alla fine comandò: tutto inutile. Amy non voleva saperne. Meg, avvilita, andò da Anna a chiederle cosa doveva fare. Prima che fosse di ritorno, arrivò Lori e in salotto trovò Amy in singhiozzi con la faccia sepolta nei cuscini del sofà. Amy gli raccontò come stavano le cose e si aspettava da lui conforto e appoggio. Ma Lori si mise le mani in tasca e zufolando in sordina si mise a camminare su e giù per il salotto con la faccia meditabonda e le ciglia aggrottate. Poi andò a sedersi accanto a lei e col suo tono più insinuante cominciò a dirle che facesse la brava donnina, la donnina di giudizio, e ubbidisse. No, non piangere, sta a sentire che bel progetto ti faccio piuttosto. Tu vai dalla zia e io tutti i giorni ti vengo a prendere in carrozza o a piedi. Vedrai come ci divertiremo. Non pare meglio che stare ad ammuffirti qui? Non voglio che mi si mandi via come una che impiccia, cominciava Amy risentita ancora. Ma, benedetta figliuola, per la tua salute ti vuoi proprio ammalare? No, non mi ammalo io, ne sono certa. Mi sono forse ammalata finora? E tutti questi giorni non sono forse sempre rimasta con Beth? Ragioni di più per andar via subito. Ti è andata bene finora. E tu perché vuoi sfidare ancora il pericolo? E poi il cambiamento d'aria e le preoccupazioni ti salveranno. Perlomeno, anche se il male ti verrà in una forma più leggera. Ti consiglio di andar subito. Con la scarlattina c'è poco da scherzare, signorina Bella. Ma è così triste dalla zia e lei è tanto cattiva. Brr. Non sarà poi tanto triste con me che vengo tutti i giorni a darti le notizie di Beth e ti porto fuori a divertirti. La vecchia mi vuol bene a me e vedrai come sarò furbo. Faremo ciò che vorremo e lei non ci beccherà mai. Mi porti in Tilbury con Puck? Te ne do la mia parola. E verrai tutti i giorni, proprio tutti? Vedrai. E mi riporti qui appena Beth guarisce, senza tardare un minuto. E si andrà a teatro? Davvero? A tutti i teatri che vuoi. Bene, allora forse ci vado. Brava la mia piccina. Chiama subito Meg e dille che acconsenti, disse Lori con una lieve manata approvativa sulla spalla di lei. Quel piccina e quella manata le dispiacquero più che l'aver ceduto. Dal piano di sopra Meg e Joe scesero di corsa a vedere il miracolo operato da Lori. Amy, con un'aria di vittima rassegnata, promise che sarebbe andata se il dottore assicurava che Beth aveva davvero il male. Come sta, povera piccola? Domandò Lori. Beth era la sua prediletta e gli premeva più di quanto voleva far vedere. È nel letto della mamma, si sente un po' meglio. Sai, è stata anche l'emozione per la morte del bimbo e chissà, forse non ha che un raffreddore. Così, pensa Anna, ma lo dice con l'aria preoccupata e io sto sulle spine, gli rispose Meg. Ma che mondaccio cane! Esclamò Joe, ravviandosi con la mano nervosa con gli stecchi di capelli. Non è finito un guaio che ne capita un altro. Quando non c'è la mamma e non si sa dove attaccarsi, siamo sempre in alto mare. Beh, intanto smettila di ridurti come un istrice con quella mano. Non ti sta bene quella pettinatura. Lascia stare la chioma e dimmi se devo fare un telegramma alla mamma o altro. Lori non le perdonava ancora di aver gettato via la sola bellezza che aveva. Già, disse Meg, questo mi mette in pensiero. Se Beth è malata sul serio, mi pare che bisognerebbe farglielo sapere. Ma Anna dice di no, perché la mamma non si può staccare dal babbo e starebbero in pena tutti e due. La malattia di Beth non durerà molto e Anna sa bene quello che c'è da fare. La mamma poi ci ha detto di dare retta ad Anna e noi le daremo retta, ma non mi persuade del tutto. Io non saprei. Se lo chiedessimo al nonno, dopo che l'ha veduta il medico? Già, così va bene. Joe, vallo a chiamare subito il dottor Banks, ordinò Meg. Se non viene lui, non possiamo decidere nulla. Non ti muovere, Joe. Il fattorino per le commissioni in questa casa sono io, disse Lori prendendo il berretto. Ma tu avrai da fare, obiettò Meg. No, i compiti per oggi li ho fatti. Studi anche nelle vacanze, tu? Chiese Joe. Seguo il buon esempio che mi danno le mie vicine, rispose Lori e uscì di corsa. Oh, il mio ragazzo promette molto bene, osservò Joe, guardandolo soddisfatta dalla finestra mentre scavalcava la siepe. E fa anche bene per l'età che ha, disse Meg senza troppa grazia. L'argomento non gli interessava. Il dottor Banks riconobbe i sintomi della scarlattina, ma probabilmente in forma leggera. Quanto agli Hamel si mantenne piuttosto riservato. Amy fu spedita subito dalla zia con tutte le precauzioni per allontanare il pericolo. Partì in pompa magna, scortata da Joe e da Lori. La zia March li accolse con la sua gentilezza solita. Cosa venite a fare qua adesso? Domandò subito, guardando al di sopra delle lenti, mentre il pappagallo sullo schienale del seggiolone strillava: Via, via, non voglio ragazzi qui! Lori si ritirò in un vano di finestra, E Joe espose i fatti. Me l'aspettavo, con quella libertà che avete di andarvi a cacciare in certe case dei poveri. Amy rimanga pure e cerchi di rendersi utile se non si ammala, come avverrà certamente. Basta guardarla. Non piangere, sciocchina. Mi secca la gente che frigna. Amy stava davvero per mettersi a piangere, ma Lori, furbo, tirò la coda a Polly e il pappagallo, che dalla sorpresa fece un verso aspro e chioccio, esclamando: Perdirindina! Fu così buffo che Amy, invece di piangere, rise. Dalla mamma che notizie avete? Domandò la vecchia signora con severità. E il babbo sta assai meglio, disse Joe, trattenendo una risata. Ah sì? Bene. Ma sarà per poco, suppongo. March non ha mai avuto una gran stoffa, commentò la zia incoraggiante. Finché c'è fiato, c'è speranza! Gradite una presa di tabacco? Ciao, ciao! Strillò Polly, battendo le ali e afferrando la cuffia della vecchia zia, tutte manifestazioni provocate da Lori, che con mano furtiva lo stuzzicava. Zitta, vecchia bestiaccia spudorata, e tu, Joe, farai bene a tornare a casa subito. Non sta bene andare in giro a quest'ora con un monellaccio come. Zitta, vecchia bestiaccia spudorata! Strillò Polly, spiccando il volo dalla spalliera per andare a beccare il monellaccio che scoppiava dal ridere. Non credo che ci resisterò, pensava intanto Amy. Basta, proverò. E fu lasciata sola con la zia. Via! Brutto muso! Strillava intanto Polly, ed Amy non riuscì a frenare del tutto un'altra risata.